da Franco, questo personaggio si chiama Franco. Ciao Franco, un piacere conoscerti. È un piacere mio, assolutamente. E quindi tutta la puntata la condurrò così. Ma ottimo. Ci svegliamo oggi. Ma ottimo, con dei professionisti come Franco e Susi. Scusami, è che io non ho queste grandi doti e quindi imparerò. Non ti imparerò. Preoccupare, sì, cara. Mi sono proprio svegliato avendo questo déjà vu del déjà vu. Ecco, oggi vorrei parlarvi della esperienza fantastica che è il déjà vu. Oh. Ecco. Oh. Oggi vorrei parlarvi dell'esperienza fantastica che è déjà vu. Potremmo parlarne magari verso la chiusura. Lasciamo un po' in attesa gli ascoltatori. Oggi vorrei parlarvi di quella fantastica esperienza che è il déjà vu. Ah, ho capito, lo sta continuando a ripetere. È un déjà vu. Nel frattempo l'ospite è definitivamente fuggito. Perché abbiamo un ospite anche questa settimana. Certo. Oh yeah. E io ho anche un branino agevolatomi dal collega di Franco. Stesso. No, dall'ospite stesso, in realtà è stato lui a suggerircelo. E intanto che lui si sbraccia e si snuda, questo gran gnocco che è il nostro ospite di stasera, oltre che essere super mega galattico, noi lo introduciamo così. Con un'introduzione del genere, chi potrà mai essere il nostro come di quest'ultima puntata, la quinta puntata di co-conduzione con l'associazione Investe W per l'ultima volta? E noi, Nahia, no. Sarà uno stripper? No! Sarà un cuoco? No! Sarà un costruttore edile? Oh, no! Un boss mafioso? No. Per la serie mi scrive che è un una drag queen. È questo. Per la serie Come farò da grande. Ladies and gentlemen, signore e signori, meine Damen und Herren, è qui con noi Andrea Lupo. Ciao Andrea. Ciao belli, come va? Va bene, grazie. Che bello, brava. Ma senti che bella voce che ha questa drag queen. Hai visto che roba? Una drag queen con degli ormoni pesanti. Molto tossico. Ho sbagliato un attimo l'ormone stamattina. Il dosaggio non è andato molto bene negli ultimi mesi. Esatto. Allora, spieghiamo chi è Andrea Lupo? Ce lo spiega lui. Mamma mia. Chi sei, Andrea? E che come ci racconterai? Perché in realtà non sono preparati loro. Non sanno niente di me. No, questo no. assolutamente. No, l'associazione allora, NAIA è sempre pronta. Faccio sfoggio della nostra scelta. Dai. Alla fine del nostro percorso su come farò da grande, siamo giunti al nodo cruciale della programmazione della gestione di un teatro. Quindi Andrea è il direttore artistico del Teatro delle Temperie. Meraviglioso! Di Calcara, in quel di Calcara, comune di Crespellano. Comune di Valsamoggia. Valsamoggia. Sono fusi 5 comuni. E tu nel mezzo col tuo teatro. E mi sono fuso insieme a loro. Diciamo. Allora. Ma che meraviglia! Quindi adesso passiamo, abbiamo fatto prima la parte creativa del come fare teatro adesso, del come nel rapporto col territorio, con la ricostruzione del tessuto sociale, poi siamo andati nella programmazione e nei concorsi, nei bandi, ed ora... Ed ora finalmente in un teatro stabile. Non è adesso chiamarlo stabile. Beh, forse nel senso non, che si non, muove, non ha le ruote. Cioè, le fondamenta sono solide. Non indagherei. Diciamo che per ora sta in piedi. Okay. Diciamo molto, per ora sta in piedi da dieci anni. Dai, diciamolo. Oggi compiamo 10 anni. Allora diciamolo subito. Bravi. Diciamolo Grazie. Subito di questi 10 anni. Festeggiate. Cominciano in realtà i festeggiamenti. Sabato 2, sì, per i 10 anni di attività del Teatro delle Temperie, che in realtà è un anniversario bellissimo, che ci dicevi prima, cioè che il 2 aprile i 10 anni nella fa... notte fra il 2 e il 3 aprile di 10 anni fa, io e Margherita Zanardi, che allora era una... E questa Margherita Zanardi, sì, mo è mia moglie, quindi stai attento, è moglie tua, sì, scrivemmo il primo progetto di Teatro delle Temperie, Notte Tempo, fra il 2 e il 3. Poi ho scoperto quest'anno, perché alla conferenza stampa di questo sabato al Teatro Calcara, dalle 10:30 di mattina fino a mezzogiorno, ci sarà anche Vittorio Franceschi, che l'abbiamo invitato come ospite, perché nasciamo un po' tutti da lì. Ma sei garroniano? Sono garroniano. Anche tua moglie? Anche mia moglie Doc. Ci fondiamo tutti tra noi. E ci teniamo parecchio. E ho scoperto, parlando con Vittorio, che nella notte fra il 2 e il 3 di aprile nacque... Alessandra Grande Garrone. Oddio, per piangere. Oddio. A me vogliamo ricordarlo. Mi ha distrutto. Per amor di della, com'è che si chiama quella lì, l'autoriflessività, no? Com'è, sì, che era? L'autoreferenzialità. Ecco, per odio di quella roba lì, vogliamo ricordare un pochino meglio che cos'è questa istituzione bolognese, che magari a qualcuno gli ha sfuggito. Di teatro di Bologna, di cosa stiamo parlando? No, la nostra mamma. Vittorio Franceschi, sappiamo benissimo che è questo attore di fama nazionale, drammaturgo di fama internazionale, poeta, okay, che è anche il direttore artistico di una realtà altrettanto importante che è stata fondata qui da Alessandra Galante Garrone, sì, negli anni 70, che è la Scuola di Teatro di Bologna, che introduce ad un modo di approcciarsi alla recitazione del tutto particolare, sia per l'epoca che in realtà anche ora, insomma è molto innovativo, perché radica la performatività e la recitazione anche nel corpo, oltre che solo nelle parole. Exactly. Brava Petra! Ma dove viene sta ragazza? Questa la Galante Garrone. Ah, ecco perché! È studiata. Adesso tutto mi torna. Allora, quindi c'è questa data che per noi è molto importante, poi si aggiunge anche questa notizia che ci ha commosso. Certo, della nascita di Alessandra, Poi la nascita effettiva dell'associazione culturale è l'8 di maggio, in cui faremo un altro piccolo evento, ma insomma, cioè adesso partono tutta una serie di che noi sul Cox, qualunque sia la co-conduzione, non mancheremo di menzionare. Assolutamente. E che Cox, bravi ragazzi. Grazie. Dunque, grazie a voi. Allora, partiamo un po' dagli albori, perché cioè, la curiosità ora. Che cosa vi spinse? Cioè questa. Sento dei fantasmi. Sì, sì, c'è questo fluido primordiale sotto, in sottofondo. Così, tappeti musicali. Vogliamo cambiare? Che cosa? No, tranquillo. Va benissimo. Cioè, molto lupo, effettivamente. Mi immagino il bosco. Beh. Che cosa vi ha spinto a. Che cosa ha spinto te? Cioè, da te, Margherita. Allora, io sono uscito dalla Galante Garrone nel 95. Quindi ho appena fatto 20 anni. Grazie. Sì, come no? C'è un applauso registrato? Sì, sì, aspetta. Grazie, voglio un trionfo. Io ho questo, arriva? Se mi dai un attimo un momentino. Sì, aspetta, che non sia una puzzetta. No, è questo. Eccolo. Fantastico, ti ringrazio, molto buddista e apprezziamo, apprezziamo. Buddista non l'avevo mai sentito. Siamo, non applicato lo stacchetto della mansione. No, no. Sì, 20 anni sono un buon risultato. Perché 20 anni. Attore diplomato da 20 anni. Sì, dai, no, lavoro da 20 anni. Sì, sì, lavoro da 20 anni. Insomma, mi sono mantenuto per 20 anni con questo mestiere, che è già un bel risultato. Ah, paese. Sì. Questo paese come... è tanta, tanta roba. Va bene, esco dalla Galante Garrone. Ho la fortunissima di lavorare moltissimo con il Teatro Stabile di Bologna, l'Arena del Sole, perché allora la fusione, no, la collaborazione fra la scuola e l'Arena del Sole era molto attiva. Certo. E poi per cause che mi sono scemata. Misteriose, è proprio scemata la parola usata in tutti i suoi sensi, perché non si è capito perché il Teatro Stabile non debba usare proprio anche in maniera sfruttante la possibilità di far lavorare gli allievi dentro il teatro, che è fondamentale per finire la formazione. Comunque lasciamo stare. Ho fatto molte produzioni con loro da giovine attore, diciamo. Certo. Questa cosa ovviamente mi è servita tantissimo per mettere su esperienza. Dopo il flusso è finito, nel senso che poi sai come succede, no? Per quanto tu possa essere bravo, e non era il mio caso sicuramente, sicuramente non è quello il problema, però c'è sempre qualcuno che esce poi dopo qualche anno e prende il minimo sindacale e tu invece no. Sì, per cui succede, insomma, che vieni facilmente rimpiazzato, ed è giusto, è la natura delle cose, e soprattutto se non c'è una programmazione sui giovani, un lavoro sui giovani strutturato. Il Teatro di Bologna, un lavoro sui giovani strutturato, non l'ha mai fatto, diciamo, di investimento sulla crescita dei giovani. Sono molte poche le realtà italiane. No, sono zero, ma infatti non volevo assolutamente parlare nello specifico male di questo teatro. È la realtà italiana che a prescindere da ciò, mi sono trovato quindi un po' in mezzo alla strada, sono andato in giro, ho lavorato con altri teatri, ho fatto anch'io la boiata di andare a Roma. Di dove sei originario tu, Andrea? Io sono nato a Padova. Anch'io, sei veneto? Anch'io. Ma come? Siamo in tre qui. Mi dispiace per voi. Sono in ignoranza. Coxarola. Oggi. Coxarola, siamo tutti veneti. Però quando... No, Irma no. No, vabbè, che ormai sono sarda. Ha una pienezza espressiva che tutti tutti i dialetti proprio li surfa così. Assolutamente. O stregheta. Allora fammi una esemplificazione pratica della differenza fra il mestrino e il veneziano, prego. Io, il mio assolutamente era ironico. Senti, senti come ride, come ride. Impostata, no? Sì, sì. E quindi così ho vagato in tutti i generi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i fiumi, in tutti i mari. Ecco. E dopodiché mi sono un po' stufato, nel senso che sono anche sceso in una importante depressione, nel senso che essere sempre alle dipendenze della famosa chiamata è molto pesante per il nostro mestiere. Lavorare 3 mesi, sei fortunatissimo, poi tutti gli altri, quanti ne avanzano? 9? Tutti gli altri 9 non sai cosa fare della tua vita. Niente. O meglio, cerchi di programmare, di aggiornarti, di tenerti attivo, di andare a far provini. Ma a parte che in Italia l'andare a far provini non è considerato parte del tuo lavoro, esatto, mentre negli altri paesi d'Europa sei pagato con la giornata minima di lavoro. Perché ricordiamo che tu perdi la giornata per fare un provino, no? Quindi fa parte proprio del tuo, è una giornata di lavoro per andare a fare il provino, perché ti chiamano, non è che vai a bussare, no? Ti dicono: vieni a fare un provino perché sto cercando un attore. Pronti? Mi paghi. Perché vuoi vedere me? No, vuoi vedere me e tanti altri. Ci versi i contributi, ci dai il minimo sindacale, siamo tutti spesati, almeno per il viaggio. Niente. E invece no. No. Va bene, quindi periodo romano, classico, pubblicità, qualche fiction, cinema. Chi ci ascolta, è una fase che effettivamente attraversano tutti gli attori. Sì, ecco. Sì. Le prove tutte. Periodo romano. Ecco, il periodo romano, poi sono fuggito anche dal periodo romano. E a un certo punto mi sono dato un ultimatum. Ho detto: bene, vediamo, se a 35 anni ho una prospettiva per questo lavoro, per il mio mestiere, per la mia crescita personale anche, bene, continuo, altrimenti mollo. Vado a fare qualcos'altro, perché devo comunque sopravvivere, ragazzi. Sì. E allora a 35 anni come hai rimesso? Ehi, raga, stavo veramente male. E allora? Aspetta! Che suspense, amici! Raccontaci, a 33 anni, se non dico una sciocchezza. Senti la musica sotto. A 30. Ok, scusa, a 30... Mi avvicino un attimo. A 33 anni circa, 34, successe che amici... Rumore di fondo, grazie. Branco De Matti. successe che io e Margherita facemmo un tentativo, diciamo dai proviamo a mettere su uno spettacolo nostro. Eravate già sposati? No, eravamo addirittura solo amici, credo, all'inizio. Adesso non mi ricordo di preciso, perché nessuno dei due si ricorda quando ci siamo messi insieme di preciso. Bello. Sì, vabbè, perché non è importante. No, non è importante. Poi tra un personaggio e la realtà, insomma. Sì, ma basta dire di sì e lei fa via dritta. Stavo dicendo, ci siamo trovati e ho detto dai, ultimo tentativo, proviamo a fare una cosa nostra, visto che dipendere sempre dagli altri è un problema, e abbiamo così cominciato a scrivere quel famoso primo progetto di Teatro delle Temperie. Da lì pian pianino si è aperta qualche strada, cercavamo una sala prove. Ecco, questo progetto già Temperie perché? Mirava a sì, beh, poi anche perché Temperie, ma già miravate all'apertura di un teatro ad una stagione da offrire ad un progetto, pubblico? Era un progetto di che spettacolo? Cos'era? Era un progetto di compagnia che però abbracciava già, c'era già una sorta di embrione della nostra, di quella che poi è diventata la nostra carta dei valori. Perché abbiamo anche una carta abbiamo anche una carta dei valori, mi fanno cenno che mi sto spostando troppo. E nella nostra carta dei valori una delle prime parole è territorio. Direi non è così scontato. Poi capiamo anche quando e come siete arrivati su Calcara e perché. Guarda, abbiamo avuto una fortuna imbarazzante, perché ci siamo arrivati molto presto. Abbiamo fondato la compagnia nel, dicevamo appunto, maggio 95. Maggio 96. Sei? Ho sbagliato. Scusa. Maggio 96. A dicembre 2006 a stiamo parlando della Galante Garrone. No, scusa, stavo parlando della Fondazione Teatro delle Temperie. Quindi a maggio fondiamo la compagnia, a dicembre abbiamo già la fortuna di aprire la nostra prima stagione al Teatro Calcare. Wow. Sì, perché è successo tutto davvero in una maniera stramagica. Questo è veramente molto molto raro. No, rarissimo. Però guarda, non così raro come sembra, perché molto spesso anche altri colleghi che conosco e che hanno fatto un percorso simile al nostro, appena sono fra virgolette tornati al paesello, cioè hanno mollato l'ambizione e il sogno di andare a conquistare Milano-Roma e hanno detto vabbè, torno a casa. Tornati a casa con una formazione molto alta, con già qualche anno di esperienza molto importante, tornato a casa sul proprio territorio, ci si scopre essere magari una sorta di possibile punto di riferimento. Certo. Se non altro nel piccolissimo vogliamo settore in cui tu sei. Raccontaci, che a noi fa piacere da dire. Adesso non me ne viene in mente neanche uno, schiesto così, ma durante la puntata ve li dirò, promesso. e quindi succede che noi tornati al paesello natio di Margherita Zanardi, che è di Crespellano, ecco perché, cerchiamo presso amici e parenti una cantina dove metterci un po' in prova, dove provare delle cose, dove cominciare a sviluppare dei progetti non solo di spettacolo ma anche di servizi culturali al territorio, vedi laboratori, vedi incontri, vedi quello che vuoi. All'inizio stiamo un po' in casa di sua mamma, poi in una casa di campagna dall'altra parte di Bologna. Bello, il teatro fatto in casa dall'altra vedi? Parte di Bologna. Sì, dall'altra parte proprio siamo andati. Sì, perché il suo Lazzaro, sì, perché il compagno di sua mamma ha un posto dall'altra parte. Insomma, tutto una cosa così, una casa dall'altra parte di Bologna. È quel che c'è. Quel che c'era, ci spostavamo. A un certo punto viene fuori che a Calcara il comune aveva appena ristrutturato un'ex casa del popolo già da un anno e provava a far dentro una piccola programmazione teatrale. C'era un comitato di cittadini, che si chiamava Comitato Teatro, però di cittadini, nessun professionista, appassionati, così, e, per lo più pensionati. E allora ci invitano a dire, ma perché non andate a dare una mano lì, visto che potete portare la vostra professionalità in questo gruppo? Ci andiamo alle riunioni di questo gruppo, in cui loro sono ben felici di dire ecco come si fa, ecco loro perché hanno la anche buona volontà, ma sì, non hanno ovviamente, insomma, ognuno ha fatto il suo mestiere nella vita e sarebbe bello che fosse considerato un mestiere anche il nostro ogni tanto, ma lasciamo perdere. Quindi che cosa fai nella vita? Ecco, bravo. Ma no, ma di lavoro. Ma no, perché adesso dirige un teatro, quindi si risolve il problema? No, è un hobby anche quello. Forse è un hobby anche quello. Sì, hobby. Sì. Cioè, ma per lavoro. Per molto capita, spesso dicono: ma prendi anche uno stipendio? No. No, faccio le pulizie, per quello prendo lo stipendio, infatti le faccio ancora io, ma a prescindere da questo, per cui ecco, c'è stato però questo evento fortunato di questo spazio che cercava una sorta di direzione, anche l'allora amministrazione pubblica cercava di capire come sfruttare questa sala appena ristrutturata, per cui noi ci siamo sentiti di dire: sentite, ma noi veniamo volentieri a questo comitato di cittadini, però se volete alzare un briciolo il tiro, mm-hmm, e soprattutto se volete far vivere quel luogo, perché sennò rimaneva aperto solo nelle giornate di spettacolo, come purtroppo succede in tantissime province, non solo dell'Emilia Romagna, ecco, ma questa d'Italia. È una cosa bellissima del teatro, ecco, di Calcara, perché sotto al piano, io ve lo racconto un po' perché ci sono stato, al piano terra c'è l'ASL, mi ricordo bene. Al piano terra ci sono i medici di base. Ecco, ci sono i medici di base. Sì. Quindi è un Aspetta, luogo... non è finito. Di fianco a noi c'è lo SPI, sopra di noi c'è una lo famiglia. SPI? Lo SPI è il sindacato pensionati dell'epoca. Grazie. Meraviglia. Meraviglia. E di fianco, da sopra di noi ci abita una famiglia di quelle con gli appartamenti, diciamo, del comune. Del comune. E dietro il teatro ci sono, sempre nello stesso stabile, nella porta dietro ci sono l'associazione di ciclisti, cioè, e siamo invasi. Voi capite che non è solo un teatro, anche per questo non è chiuso. Cioè, è un luogo proprio dei servizi al cittadino. Sì, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Noi siamo un po', ormai siamo un po' stretti perché... non ci stiamo più lì dentro, ma stiamo cercando, immagino, di capire di usare altri spazi. Vi mette alla prova nel senso, no, perché del dialogo, la convivenza è un po', convivenza sta diventando un po' difficile, soprattutto per loro, perché noi facciamo molto rumore, perché avendo laboratori, spettacoli sia la mattina che pomeriggio e la sera. Il teatro Calcara raggiunge questo risultato dopo 10 anni, e vi dico 3 numeri solo perché mi devo vantare di questa cosa, perché ci tengo da morire. E a noi ci piace. Preparati. Allora, il teatro Calcara, proprio la sala teatrale, non i medici o quegli altri, la sala teatrale del teatro Calcara è aperta 253 giorni l'anno, grazie, e ogni giorno di questi 253 giorni è aperto una media di 15 ore al giorno, grazie, e in queste 15 ore non è che è aperta la biglietteria, vuol dire che in queste 15 ore al giorno c'è sempre qualcuno, qualche cittadino, che usufruisce di un servizio di teatro delle temperie. Che sia uno spettacolo di matinée per le scuole, che siano i laboratori alla mattina rivolti alle classi e alle scuole, che sia il pomeriggio i corsi per i bambini, quelli insomma a pagamento pomeridiani, che siano i corsi serali per adulti, o che siano spettacoli serali, o le prove di spettacoli, o le residenze che diamo a altre compagnie che vengono da noi per usare lo spazio, quello spazio è costantemente abitato. C'è della vita. Grazie. E deve essere questo, così, perché i teatri, infatti, chiusi sono un abominio. Grazie. Esatto. E con questo noi riprendiamo, abbiamo introdotto il nostro tema e abbiamo il nostro ospite, e lo approfondiremo dopo quello che sappiamo che c'è verso le 7:30, no? Chiaramente. Yes. A tra un po'. Cozzo sacra. Sono Roberta Giallo, questo è il jingle per il mio stalker, sono vestita di grigio rosa e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale. E bentornati alla 136esima puntata di Coxo Spaziale, che vede anche la partecipazione straordinaria e a sorpresa. Che con tutte le cose che abbiamo da dire adesso, oggi ci intralci un pochino. E vabbè, comunque, il cofondatore del Coxo, Stefano W. Pasquini, The Original. Sono venuto a rompere il cazzo. Il Coxo, dai, hai perso tutto. Hai detto a me di non dire le parolacce, e poi lui le può dire. Sono mesi che non è presente. Esatto, no, è che mi sono dimenticato. Quindi. No, dai, allora un po' di punizioni, intanto che noi. Ma faccia al muro, posso dire che è una gragnocca? No. Lo dici dopo che sei stato in punizione. Che ormai non siamo più W di te. Esatto. Sei venuto. No, anzi, sono molto più W loro di me. Sono super mega galattici. Super W. E noi siamo ancora qui con. Te lo ricordi? L'angolo della menzione. Me lo ricordo e devo già caffiarti subito, non hai nella tua lista non c'è nulla di quello che succede sabato, ci sono 1 miliardo di inaugurazioni a Bologna. Ma io ho messo quella che inaugura adesso, la serie di performance. No, beh, diciamolo. Facciamolo. Se io tu vado non mi passi l'arte, io come faccio? Però adesso abbiamo giovedì, poi venerdì e poi sabato. Ma perché oggi è giovedì? Sì, ce ne abbiamo una che è già iniziata un'ora fa. Da adesso, infatti la prima menzione è da adesso. Al 15 maggio. Sì. Ha inaugurato oggi censor, un'azione di Simone Forti. Simone Forti, perché Simone è un artista, performer, coreografa, fondatrice. Ok, quindi Simone. Ed era un'ora e mezza fa. Esatto, però ogni giovedì replicherà con nuove reinterpretazioni. Prego, infatti, dottoressa. Oggi è stata presentata per la prima volta. È stata presentata per la prima volta nel 1961 nello studio di Yoko Ono a New York. Questa sensor. In occasione della doppia collettiva 66-16, curata da Lorenzo Bruni per la galleria Enrico Astuni, Simone Forti rinnoverà la sua performance ogni giovedì alle 18. E poi per saperne di più domani troverete tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. Grazie Petra. Grazie a te, dolce Irma. Procediamo, andiamo a venerdì alle ore 21. Vai Federico. Venerdì alle ore 21, lasciateci perdere al Teatro Comunale La Casa del Popolo. Conclude la seconda edizione della rassegna Vocazioni, il fortunato spettacolo della compagnia Eccentrici Dadarò, che saluto caldamente, sono miei amici, insomma li conosco, quindi consigliati personalmente dal co-conduttore coxico Federico. E anche da Michele Pascarella. Ah, vedi? Ecco. Che credo poi avremo... No. No, abbiamo invece qui il tuo carissimo amico Fabrizio Visconti. Ah, okay. Che è co-regista, coautore insieme a Bruno Stori dello spettacolo Lasciateci Perdere. Ok, finiamo di dire quindi: tre genitori come tanti altri che cercano una scorciatoia per raggiungere i figli, si perdono nel bosco di notte come nelle fiabe o nei racconti horror. Come andrà a finire? E che cos'è? Che cosa sarà sulla scena? Ce lo dici tu, Fabrizio? Sei ancora lì? Pronto? Sì, eccolo, benvenuto. Benvenuto, grazie mille. Sì, guarda, domani in scena appunto chiuderemo una storia che comincia in realtà già la mattina con solo i ragazzi, perché la mattina racconteremo la storia di tre ragazzi che scappano di casa, mentre la sera racconteremo la storia dei tre genitori che vanno a cercarli. Meraviglioso! In realtà questo progetto fa parte di un lavoro che ha come scopo far dialogare le generazioni, quindi gli adolescenti e i genitori che sono in una fase difficile del loro rapporto, cerchiamo di raccontarli uno all'altro attraverso il teatro. E dal punto di vista del genere, leggevo qui horror, fiabe, come si presenta il vostro allestimento di domani? No, allora, è uno spettacolo di... Non è horror, nel senso che di horror ha semplicemente la logica del perdersi nel bosco, che è quello che accade a questi tre genitori che, cercando una scorciatoia per raggiungere i figli scappati, prendono una sala in un bosco, si perdono e lì in realtà, in questo perdersi, hanno l'occasione di ritrovare una parte di sé che si erano dimenticati, cioè che è proprio quello spirito di avventura, il tentare di vivere una notte diversa, una dinamica che non è quella sempre uguale del genitore, quindi la propria maschera, ma anzi è trovare un modo per passare, perché poi quando si perde nel bosco la macchina attraverso cui, con quale stanno cercando i figli, si rompe, quindi rimangono completamente isolati e quindi qui devono inventarsi un altro modo per vivere quella notte e quindi ritrovano un po' di quella libertà che si erano... Il nostro caro Michele Pascarella mi ha anche reso noto che lo spettacolo che ha debuttato nel 2010 ha anche avuto diversi riconoscimenti. Sì, questo è uno spettacolo che è stato premiato con l'Eole Award, che è un premio nazionale che viene dato al migliore spettacolo, in questo caso di rapporto tra le generazioni. Già Per la strada aveva vinto questo premio come migliore spettacolo di teatro ragazzi nel 2006. E poi quando abbiamo fatto il seguito, perché questo di fatto è la seconda parte, anche se sono spettacoli indipendenti, abbiamo vinto nuovamente questo premio perché evidentemente il progetto aveva un senso nel suo insieme. È nato in strada quindi il progetto? Il progetto si chiama, allora, il primo è Per la strada ed è ispirato, diciamo, è della storia di questi tre ragazzi che scappano, sì, ed è ispirato al film La strada di Fellini. Mentre invece Lasciateci perdere, che è la seconda parte, è la storia dei genitori, ha vinto il premio come miglior progetto produttivo. Questa curiosità, scusate, perché Fabrizio, chissà se ci conosciamo. Io sono Federico, il tecnico di Nando e Maila, chi lo sa? Il tecnico di Nando e Maila? Sì, sono io. Caramba! Caramba, ci conosciamo? Mi sa di sì. Beh, secondo me li conoscete biblicamente. ecco. Vabbè, quindi tocca che io vi devo venire a vedere quindi venerdì. Ma ci dobbiamo andare tutti in prima fila a scoprire che cosa capita se incontreranno il lupo. Va bene. Visto che il nostro ospite di oggi è Andrea Lupo. Fabrizio, devi sapere che il nostro ospite si chiama Lupo, quello del programma della 136esima puntata di Coxo Spaziale. E quindi abbiamo fatto questa simpatica buttata. Vabbè, metto lo stacchetto. Fa mai male. E ti saluto, Fabrizio. Grazie mille, ci vediamo domani. Venerdì, sì, domani. Ci aspettiamo in teatro, dai, così ci conosciamo e vediamo lo spettacolo e poi ci parliamo dopo. Perfetto. Benissimo. Grazie ancora. Domani. Ciao. Mille. Okay, ciao. Non tocca quindi a te, Stefano. Ne abbiamo aggiunta una in extremis. Io sono sabato alle 18. Io sono sabato alle 10:30. Sabato alle 10:30, i primi 10 anni di Teatro delle Temperie. At Teatro Calcara, conferenza stampa per l'inizio dei festeggiamenti e la proclamazione e le premiazioni del concorso Io sono Teatro. Poi Andrea ci racconti del concorso Io sono Teatro. E al termine brindisi aperitivo. Olè. Olè. E adesso? Adesso tocca a me. Non lo prego. So. Sì. Dunque, sabato alle 6 inaugurano Galleria Più con Gabriella Toma. Galleria si scrive con 3 L, mi raccomando. Le menzioni del Pasquini. Gabriella Toma e Claudio Kobylański. Poi, nello stesso momento, inaugurano anche Locale 2, che è lì vicino, è tutta zona Mambo, zona Manifattura delle Arti, con Mimì Enna, delocazione dello studio di uno psicologo, a cura di Leglio Aiello e Massimo Marchetti. Marchetti, è un po' che non lo vedo. E poi la P420, che ha aperto una galleria strepitosa, grande, 2,5 volte a Stuni, è spaventosa. Dove? In via Azzogardino 9, che inaugura una personale di Riccardo Baruzzi. Questa infatti la dovrei far vedere ad Astuni perché così capisce che si possono fare delle personali anche se lo spazio è molto grande. Del disegno disposto alla pittura. Dopodiché c'è anche Car Drd con Elia Cantori, Action at a Distance. E io saluto anche Gabriele Tosi che è stato il secondo co-conduttore. Gabriele Tosi che è tornato a... No! È tornato a Pistoia. No! No! Non dovevo dire? No, è ancora a Bologna. Si muove Gabriele Tosi. Andiamo avanti? Con sabato, sempre sabato 2. Yes, alle ore 21, signore e signori. Io sono per la gioia di Irma, Federico sì. Che ci saremo infatti sicuramente. Lo adoriamo. Io sono un cane più i Trees of Mint o Mind, forse Lupo si leggerebbe. Intanto guarda. Sono live al Locomotive Club di Bologna, quindi è un'imperdibile occasione per ascoltare dal vivo i brani di Io sono un cane, che ad un anno esatto dall'uscita del suo ultimo album, che si chiama Die, dubbio proclamato da riviste il miglior album del 2015. Esatto, partirà in tour proprio in questi giorni con il suo tour 2016 che si chiama Mandria, che è un tour con la band live, al contrario dei precedenti che erano tutti in sintetico. Esatto. Bene, continuiamo che ne abbiamo tantissime. Ma aspettate, prima visto che stiamo parlando di cantautori e di teatro, abbiamo parlato dei Come, io c'ho sto brano che sono 2 settimane che provo a mandare di Andrea Ascolese. Preca. Attore, drammaturgo e anche cantautore. Vediamo se ci va lo WAV. Preca. Pare di sì. Funziona. Oggi tuo padre vuol solo parlare. Ha mille scuse per non ascoltare la voce del vento e i pensieri del mare. Si scatta selfie per non cancellare e ricordare vola via di qua, scatti un selfie su di me, nella via che porta al mare, è più facile. mare. Oggi il tuo capo non vuole cambiare, ma solo paura e vuol guadagnare. Se scatta selfie, ma se in prigioni le tue emozioni le perdi per sempre. Ritrovati alla 136esima puntata di Coxo Spaziale. Un salotto dall'altra parte del vetro, eh? Qua ci siamo non in un quadro. Salotto. Che parlo anch'io. Aspetta, parliamo più insieme. Dai. È che c'è Pasquini, è una cacciara. Vi ho abbassato, scusa. Ecco, abbiamo ripristinato bene. Perché noi adesso, in tutta filata, dobbiamo continuare con L'angolo della menzione. Bravissima. L'ho detto, dovevo dirlo. Prima di andare via, mi ha chiesto Fuga per dimensionarlo. Lo menzioniamo in coda, dai, sì, dai, dai. Perché non ci manda oggi più un sacco di menzioni? Ma tantissimo. Tantissime. Quella di domenica 3 alle 12:30, verdure di tutto il mondo, unitevi. Cooking show, musica e arte a difesa dell'ex caserma Masini. Sembra una cosa importante. Ah, certo. E abbiamo qui l'ideatore in linea, vecchio amico del Coxo, Luca Giovanni Pappalardo. Nonché Gragnocco. Sì, che ci spiega i perché e per come, che sono sicuramente... Pronto, Luca? Buono, ciao. Come sono sti perché e per come? Buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera, che bello. Cari amici, vicini e lontani. Eccolo, ecco. Bastardi, vorrei aggiungere. No, autore della prima rubrica Cucina Notturna. Che meraviglia. Esatto. Anzi, pochissime ricette. Intanto che parli, niente, vado a cercare il jingle, così poi te lo metto sotto. Brava, perché quello ci vuole. Allora, innanzitutto saluto Pasquini e lo ringrazio perché anche lui partecipa a questa iniziativa per il Labà con un piatto molto bello. Ah, sì? Illustrato da lui, dove ma che c'è bravo. Un ritratto dello chef in bestemmia, in veste di bestemmiatore, che mi sembra quello più realistico. Ma soprattutto ci sarà anche un piatto della Gaia Bernasconi, un piatto dell'Amicico Sinesi, dove io metterò dentro queste verdure di tutto il mondo, unitevi, che è questo piatto metaforico per dire che il Labà, questo centro sociale occupato, questo progetto sociale al centro di Santo Stefano, rappresenta perché ha unito trasversalmente tutti i residenti, dalla vecchia signora di una certa età ricchissima allo studente fuori sede. E infatti spiega un attimo per favore a chi magari non frequenta quelle parti e che non è informato, e che dovrebbe, cosa è riuscito a fare in questi anni quello spazio, perché tu abiti lì vicino, hai anche dei bambini e quello diventa uno spazio veramente utile. Esatto, oltre ad aver installato il mercoledì pomeriggio il mercatino del biologico a prezzi stracciati, direi, con prodotti della Madonna di Campi Aperti e Giulino Clandestino, che non è poco come servizio alla comunità. Articola ha meglio, anche laboratori per bambini, ha fatto anche laboratori musicali, ha fatto laboratori di ogni tipo. E non è un semplice servizio di babysitteraggio o di chissà di intrattenimento, come possono essere i centri sociali tipici bolognesi degli anziani dove si gioca a bocce, no? In realtà è un posto dove è una scuola di cittadinanza, dove il bambino, l'adulto e chiunque altro si sente veramente partecipe. È bellissimo, Luca. Perché qui come stato Stefano è importantissimo. Non è tempo per me, ma lo voglio. No, lo so, però qua la reazione è meravigliosa, perché tu parli di queste cose e il nostro ospite che ci chiede: ma dov'è sto posto? Vedi che crei curiosità. E quindi tutti ma quanti. Chi è il nostro ospite? Lupo. Niente. No. Lupo, ciao. Il direttore del teatro di Calcara. La Madonna, Calcara, io conosco la Claudia Federici. A carrambata, non ha reagito no. Di più quando la Claudia Federici, conosco bene, la mia amica mia. Quando parla la grande Claudia, sì. Grazie. Va bene. Era gragnocca. Vabbè, voglio dire, io sono in servizio, quindi insomma. Stefano. Allora, domenica alle 12:30 tutti a sostegno della BA in via Orfeo, giusto? Nell'ex caserma. Assolutamente, io insieme alla squadra del ristorante Capri e Cavoli di Milano, che quindi non è pubblicità perché nessuno viene a Milano a mangiare da Bologna, faremo questo servizio alla comunità. Faremo io un cooking show. Ti ringrazio per il contributo e ti saluto con il tuo vecchio jingle. Vai! Che non è quello che pensi tu. No, come no? E qual è? Ciao! Ciao Luca! Lo sfumi così, basta. Grande Luca Giovanni Pappalardo, detto anche lo chef. Riprendiamo con tutta la velocità. Domenica 3, tra l'altro dobbiamo dire che lì a Verdure di Tutto il Mondo Unitevi, poi in coda ci sarà anche lo spettacolo di Rev con la regia di Massimiliano Briarava. C'è bisogno di fare un esempio, uno spettacolo sulla resistenza. C'è bisogno di fare un esempio, uno spettacolo sulla resistenza. Ecco. È piena di carrambata sta menzionata. Allora, invece alle ore 15, Open Day, Shatsu, Yoga, Fedel Craigs, io non lo so mai dire Christ. Questo brava Feder, posturale e design at via Quadri 11. La Laura Ulisse, che tu sconosci bene, Stefano Pasquini, concorre per la parte del Feldenkrais a rendere viva questa attività, che sono un'occasione gratuita per provare tutti questi corsi che fanno tanto tanto bene. Quindi Feldenkrais, Hatha Yoga, gratuito, Shatsu biodinamico, insomma l'unica cosa che serve è la prenotazione, quindi domani poi su www.coxospaziale.blogspot.com andate a cliccare, vedete, prenotate e scegliete quali di questi corsi, anche massaggini mi sa che vi fanno, sapete? Wow. Attenzione. Ma lei poi possiamo vedere. Allora, siccome questo weekend non finisce più, alle ore 16 poi c'è Lutka et Dulcamara Circus. Continua la rassegna Dulcamara Circus di circo teatro per tutta la famiglia. Questa volta è di scena la compagnia Teatrino di Carta. Maurizio Mantani e i suoi burattini ci porteranno in un mondo in cui nulla è di nessuno, ponendo l'accento sul problema del potere attraverso il possesso. Uno spettacolo per bambini ma anche per adulti. Arcicoxoli. Ah oui, a ingresso gratuito, uscita a cappello. Je vous rappelle. E io rilancerai poi anche con questo. Purtroppo per questioni... No! Saturiamo il microfono, no! Ma che musica ascoltate? Sì, è lui! Ha portato gli Iron Maiden. Ah no. Lascia perdere, va. No, dai. Che abbiamo un sacco di cose da spremere, informazioni da spremere dal nostro ospite. Allora, gli lascio la musica in sottofondo così mi si ricarica. Pezzo è straordinario. Sì. In questi 10 minuti di Iron Maiden vogliamo chiedere ad Andrea, di cosa si tratta... il concorso di cui farete le premiazioni. Io sono teatro, abbiamo invitato tutti i nostri corsisti che da quest'anno sono più di 1200. Sticoxi, si può dire anche forte, a partecipare a questo concorso. Si può fare un disegno, un quadro, una foto, qualsiasi cosa. Mm-hmm. E sono stati messi, caricati poi su un tema che è la nostra frase portante dei festeggiamenti di 10 anni, che è: niente è più importante del mostrare a tutti la bellezza. Ma che bello! Metterei lo stacchetto, non fosse che sennò mi blocca gli aromi. Non rovinare Rhyme of Nice and Mariner. What's American People? A saperne. Queste opere poi venivano caricate su un sito che è iosonoteatro.it, votate da chi voleva. e i vincitori riceveranno poi un classico buono sconto per i nostri laboratori dell'anno prossimo. E la possibilità quest'anno un premio anche nuovo, perché non è il primo anno che lo facciamo, cioè 2 ore di lezione personale con il loro insegnante bellissimo dei nostri insegnanti. E dobbiamo correre con la seconda domandona, che ci specifica migliormente il come. Tu sei stato invitato proprio per questa domanda. Sono pronto. Assolutamente. In questi come abbiamo incontrato prevalentemente in realtà compagnie di produzione, le quali si interrogano sempre su come interfacciarsi ai teatri, cioè il grande mistero di come rapportarsi alle direzioni artistiche e convincerle a prendere il tuo teatro. Quindi Teatro delle Temperie, come cura la programmazione? Prima una battuta che non è una battuta: non mandate i promo, io detesto i promo. E cosa bisogna mandare? Non li posso vedere, voglio il link al video integrale. I promo li odio. I promo li odio. Bene, perché in un video di 4 secondi montato ad arte con una bella musica sotto, mia madre che pulisce il cesso è la più grande attrice del mondo. Ecco, quindi voglio vedere lo spettacolo intero. Ma a prescindere da questa battutaccia, noi facciamo una programmazione molto attenta e molto rivolta al nostro territorio. Noi diciamo, ci vantiamo sempre di dire che ci piace fare teatro a chilometro zero. Okay. Perché è inutile fare una programmazione a Calcara rivolta al centro di Milano. Quindi questo significa che andate a recuperare che artisti del spettacoli... territorio? No. Questo vuol dire che spettacolo sulla Madonnina, che doveva, secondo me, a voi interessava molto. Ma non ti sente, Pasquini, a parlare di qua. Manda il materiale, sarà preso in esame sicuramente. Magari il promo di te nudo che cucini in cucina. Con Pappalardo. Pappalardo, perché anche lui è un grande gnocco, so che ci tiene che venga detto. Conoscete il vostro pubblico, siete a contatto tutti i giorni con lui, quindi sì, questo non vuol dire né abbassare la programmazione alla richiesta, alla fame diretta del pubblico di riferimento, né limitarla geograficamente. No, assolutamente no, prendiamo compagnie di tutta Italia, però ci piace molto che gli spettacoli che vengono da noi abbiano un primo livello di lettura comprensibile a tutti. Perché crediamo che sia questo il valore di ogni produzione, insomma, crediamo che sia il valore principale, cioè che almeno a un primo livello sia comprensibile da quasi tutti. Poi ovviamente c'è quello più esperto, quello più anche intellettuale, quello che ha studiato di più, quello che conosce meglio il teatro, che può conoscere altri livelli più profondi. E quindi come fate? Quali sono i criteri di scelta? Quali sono anche le tempistiche? Intanto valutate i video integrali. Quindi fate delle interviste agli abitanti del territorio chiedendogli: ma che spettacolo vorreste vedere? No, noi siamo soggetti abbastanza, che conosciamo abbastanza il nostro pubblico, ma ci piace, insomma, gli spettacoli li valutiamo noi, non abbiamo bisogno di intervistare gli spettatori. Valutiamo noi se intanto è comprensibile ad un primo livello di lettura, e poi quanti altri livelli di comprensione e di approfondimento possono esserci nello spettacolo. Ci piace. Prego. Sì, no, rapidamente. Rapido, così. Sì, no, perché mancano 4 minuti alle 4 8. Minuti, quindi quindi abbiamo 1 minuto e mezzo ancora di trasmissione. Ecco, quindi io volevo che lui ricordasse in questo 1 minuto e mezzo i prossimi eventi in programma che hanno programmato con che i criteri di cui sopra. Da domani troverete su www.cascospaziale.com. Bene. Vai, Andrea. Allora, venerdì 1, che se non sbaglio è domani sera, alle 21 c'è Balkan Burger, uno spettacolo di teatro delle donne. È la storia di una donna all'interno di tutti i conflitti dell'ex Jugoslavia. Uno spettacolo bellissimo con musica dal vivo. E sabato 2 invece c'è il mio spettacolo, il nostro spettacolo, Il Circo Capovolto, tratto da un romanzo di Milena Magnani, che è una scrittrice qui di Bologna, e, al Teatro Cantelli di Vignola, sempre ore 21:15. Sabato 2. Okay. Fine, sono stato velocissimo. Vi spostate e qui è avuto questo bellissimo, sì, che loro fanno produzioni e che portano quindi anche giustamente in altri spazi che non siano. Facciamo anche quello, il teatro, sì. Calcare. Ma in quanti siete? Noi, un'altra di quelle cose per cui vorrei il è che siamo arrivati dopo 10 anni ad essere in 7 a tempo indeterminato con 13ª, 14ª e TFR. Grazie, ciao. Ci vuole applauso. Direi di sì, perché in questo ambiente vuol dire moltissimo. Ci sta benissimo. Grazie. Il brano che abbiamo scelto in chiusura, che però non possiamo mettere perché siamo fuori tempo massimo. Ciao, grazie. Ciao a tutti, si conclude così la 136ª puntata di Coxo Spaziale, da domani riascoltabile e a partire dal link su www.coxospaziale.blog. Naya vi saluta con amore. Ma tornerete. Sì, ciao. Tanti coxi a tutti.